Così è visto, ho ragione Califu. Sì, oli voi. Che te bava? Ho fatto mamma chiuccia. E ora io, grazie. Ciao, Gianni e California, riprenditela Giomari. Sta andando, grazie a comunque, dai. Sta andando, così che per cui tranquilla va. Ma già caso. Meglio così, e beh, vai a Puc, avanti, non sai di rubarmi a danzo. Eia, vediamo un po', Gianni. Che cosa, Giomari? Cos'è lo scalda con la Parigi? Vabbè. Ho detto, cos'è che andendi, la Parigi? No, la suffa, che non vuole fare. Dove la fiamma era sempre bassa, boh, strano. E stamattina ho fatto una bella pulizia e ho visto che sta andando adesso, tranquillo, capito? Oh, scaldato ugualmente, però boh, non è come il mese scorso, che da quando l'avevo accesa la fiamma era bella, alta e tranquilla, capito? Perché adesso era un periodo che non mi stava bruciando bene, forse perché era un po' sporca, capito? Allora, come dai, ho fatto un travaglio e già vedete. Ma la pellet ce l'hai tu, Giovanni? E io? Con la pellet volevo pulire ogni tanto, specialmente ricordi sempre che quando usi il pellet che non è buono te la sporcare più. Dovresti usare quello di faggio, che è il migliore, quello di faggio puro, perché poi la fanno di legno, di segatura, di cose, dice, di imbruttare tutto, va della furigine, tutto qua. E anche quello c'è. Allora, io ce l'ho, mio figlio ce l'ha precisa, di fronte a me qua, precisa e identica lassù. E tra la fiamma più sempre più bassa della mia, a due che è una fiamma che è una cosa incredibile, perché la mia no, e il primo periodo me la faccio così, il primo periodo, dopo un mese e mezzo ha cominciato a calare, la pelle era la stessa, così che sto usando, l'ho dato un sacchetto della mia pelle e a lui che brucia bene, e questa non stava bruciando bene. Così che sporcava anche il vetro un po', capito? Così che oggi la giovane trabaglia giusto che andate a vedere, per cui speriamo che continua così, capito? Eia, ma secondo me già ce l'ha anche California, magari ti saprà dire qualche cosa in mito. Franco, cosa è il fatto che non dia la fiammata, che non soffia bene, che non gli dia la fiamma? Diciamo che non è un po' morta, dice la fiamma di Giovanni, c'è una ventilazione, Giovanni, ma è bello che la farà via, prova a spegnere e riaccenderla. È già un mesetto che lo stava facendo questo lavoro, capito? E infatti io non ho fatto strano, se quella di Tore è precisa, capita, la stessa pelle, è sempre la fiamma bella, sì, si deve abbassare un po', però la mia si abbassava troppo, ecco, per cui sembrava che si stava spegnendo, capito? Ma ah, io ho pensato anche quello, perché c'è il tipo di pelle anche che teme anche l'umidità a me. Tutto per quello, allora ti dico, ho comprato. Ho provato a prendere il pelle che dai lo spindi e mi ha fatto quel problema lì. Adesso ho comprato il pelle di quello di faggio e l'altro di più. Però non mi ha fatto quel problema, capito? Mi accende subito. Tutto qua. Infatti, sì. Ma perché quell'altore ha lo stesso, l'ho dato un sacco proprio a provarla e ho visto che da lui la fiamma è sempre alta, a due, e la fiamma è sempre alta, cioè la mia magari accende per un po', poi si abbassa, so che si deve abbassare un pochettino, ma non più di quant'altro, capito? E poi si arrivava più bassa, la fiamma ed è regolata la stessa cosa come quella là. Prova a cambiare il tipo di pelle, sì. Ma pulendo la stai dentro tutto quanto. Che mandavo che tra il filmatezzo e speravo che riuscì a piazzare la torra. E c'era parecchia pulugine, povera ce n'era mala sorte. E ho visto che sta andando bene, speriamo che continui così. Ma io la pulisco un giorno sì, un giorno no, però magari come stamattina lo apparecchio lo pulivo, stamattina l'ha fatto pulizia completa, e per cui forse è per quello che sta andando bene, dai. Giaviglia, KK, dammi un rapporto di segnale, Giovanni, che sono quasi a metà di Porto Torres. 93-94, sì, 93-94. Ora, ancora, ormai si vede i granculi dentro la spugna erano, ma belli grossi, certo, un peccato è stato. Non fate male perché poi alla fine ho visto che faceva la parrucca, c'era il fondale sporco perché con la mareggiata che ha fatto ha sporcato tutto il fondale di alghe, di cose. Si vede la parrucca, c'è il biondo che è là. Sapete bene che state a... Dove sei? Sono all'entrata del Porto Torres io adesso. 69 Radio 5. Quanto la stai usando, Fra? Tanto è una famosa nera. 9 Radio 5. Io quando ti arrivo lì. 10, 9, 20, sì, qua. Io sono... La Magrini, là, così. A pescare sta andando. A pescare sta andando. Non ho capito. Ma sta subito, ma lo dico io, e allora cosa mi sarebbe dire? Grazie a Dio. E allora, io non credo, comunque la mia, la zucca a pelle, c'è già. Io le ho fatto il pentolino, il cassettino, ho guardato nella piastra, c'era la vita a prua, l'ho svitata, ne ho levato frontalmente la ghisa che c'ha due levette in casa, l'ho levata, ho levato quella piastra, sotto c'è un buco alla ventola. Era imballata, piena di burigine, ma così girava di tipi di grurito. E allora lui tutto aspirato lì dentro, pulito, anche pure la mia faccia come mettersi giù, chi sei Gio Maria? E avrai un treno. E allora, perché la burigine tratteneva la ventolina che pompa l'aria, capito? E mi accomodi non mi si è bruciato il motorino perché era incasato pure lì dopo il motorino e lo faccio posso riscaldare di più, capito? Poi la vetra stava sforzando, capito? E la fiamma ma poi c'è la mucca, non gli lava bene la ventola. E la più pulita è un treno. Questo va bene comunque in ogni caso. Caspita, come te la pulita, la sera l'ha già attaccata a Missouri, una piana da mezzo che mi sta succiando, non avrai sì, te la zuppa e la fiamma. L'ho regolato adesso, uso. Cosa? Sto bene, ma... Sì, già ti sento bene, però vicino alla bocca c'era. Adesso l'ho allontanato. Adesso ti sento più chiaro, più pulita. Andare perfetto. Che microfono è? È buono, vero già? Sì, già va bene, fra. Già si capisce bene, dai. Di lusso. Andare. Ultimo per la truppa. Cosa fra? E mo ti stai abbassando, dove sei? Scappa, di radio perché il Santiago sei sempre nuovo, oscillante ma sei sempre nuovo, eh. Cosa stai usando? Ma c'hai anche qualche aiutino? Pinocchio, avanti, grazie. Grazie. Gio Maria. Graziano andava a bigliarti a sul caffè. Ogni tanto lui si fuggi. O è andato a fumarsi la sigaretta e sta sempre fumente. Uno ha preso il latte e il comandante era io che ha preso il male. Mio sa, in un'ora si è fumato 15 sigarette. Grazie. Dai, io chiudi sono più del raffreddo e fumetto. Per carità. E beh, Califo. Califo. E la telefono. Ma già parli qui. C'è che drugiolino. Oh, è andata la minibuggia a casa Giulia che abita nel primo portone. Ah, anche un tiro è poco di virarsi, sempre se che io venivo, come te è California, che è sempre in secca. A pisare a belli, ce lo so piccendo oggi. E allora, no, la stadiglia ha giubicato, la di un compleanno, che ha giubato un regalo, gli ho regalato un crocefisso con la catenella, con tutte le perline. Aspetta, ma lo sai che le perline che usi quando vai a fatta mola non ridono? Ma è l'altro, sono verdi. Ah, beh, a fare quella voce stai scendendo più, o i figli sei adesso. Cosa metto? Ah, me stavo dicendo, pensavo che si sia graziata, è toccata a chi non vuole graziare, è incantata. No, giovedì io gli ho fatto l'radio continuato, sino alle 3 e poi stasera non sono andato. Ah, ecco. Ma stavo dicendo a Graziano, se sta continuando ad andare lì a fare quel lavoro all'olio di Patamona. Grazie. No, è vero, lo fatti, no. Il fuoco, la crisi che fa, non verrà più venendo nessuno, Buruguida aveva ragione, e allora saranno ripartenti. Boh. Ebbene, non dovevi andare pure a Cosio, dov'era? A Stachera, ma dov'è dovevi andare? Lì andando ci sai. No, a Porto Quadro. No, lì no, a chi dice per il momento ancora no, non si vede nessuno, turisti. E allora rinviato, vediamo più là se questa crisi si sveglia, se si fa vedere gente, già ci sentiamo, dice. Con la fame di freno non va da nessuno quest'anno in chi si rughi. Allora di mezzo lo stipendio, grazie. E vabbè, già te lo fai magari in estate, dai. Riprendi già. Anche con la voglia di sì, grazie. E allora, la sera andrò in Natale con voi, a chi non lo sa. No, pensavo che di pensione brutto. Oh, ma questi sono lavori che si, capito, alle feste. No, adesso no, e poi pure a farmi chi vengono per andare più nessuno. Adesso è che ci sarà un bussuccio, e allora non ne vale la pena. E cosa fai a invece, vendi i turoni? Il cubo, cazzo cosa fosse, di Virgio Mari, tutta la metà truccata, Ehi padre, fai il cubo come ci stai dicendo lui, capito? Con i brillantini, le cose, le perizoma, tutte brillanti, si rubano il Mari, un fiorellino Mari. Tu sei andato, lì non andava sempre, io scendevo sempre quando c'era lui, capito? Per cui adesso mi in estate che apre il lido, magari lui ci scende, per cui fa questi lavori, capito? Se lo vedi, oia, e venemi d'accordo. E allora, va bene anche andare nelle discoteche, grazie. Se bisogna di là, grazie se non guardano, cazzo a chi gioco so. No, allora, mica ci vuole una bella preparazione, sapevo le burro di nami, devi dare parrucchi, devi sempre aggiornarsi, un casino di cose, non è che ande così, no. E avviso, bravo, grazie. Ma comunque al del Patamona ha visto che l'hanno buttato a terra, non l'avevi visto, no? Non c'è più nulla, fra poco ne la passo pure a terra, mi fanno le ecografie, quelle visite lì, cazzo me la crisi. Ma domenica sono andato in moto. venuto a fare un giro e quella di Ruspe di domenica la prende di tutti i bar. E c'era una signora che stava cercando i documenti, aspetti che devo vedere ci sono i documenti miei, questo e quell'altro, e stava cercando in mezzo alle macchine che faceva la Ruspe, ha detto signora io devo lavorare, non può mettersi in mezzo qua che devo buttare tutto giù io. Lì ho organizzato anche le sfilate di vestiti, di moda, di bambini, di ragazze, pure di gente anziana. Una guba piazzata tutta la passerella, un purrone pieno di bevande, adesso gubizzavali. Ma allora si buviava, ma non si può fare più nulla. Siamo più già andavo, io noi andavamo anche a mangiarci la pizza con mia moglie lì, la pizzeria che c'era, la passeggiatina ti facevi, ascoltavi musica, poi a volte c'erano i balli lisci, anche ce n'era di roba. Lì dopo ballavo il liscio, tutto preso al suolo. C'era un bar più avanti di lì, no, andando verso dove c'è la pane lì, un bar che un'amica mia l'ha preso in gestione, mi ha detto ci facciamo i soldi, io giugno avanti solo ci facciamo i soldi, ce ne ha anche rimesso. Ma Maristella sta dicendo, grazie, Maristella. È un bar con il cortile, c'è il cancello dietro nel cortile, sulla destra. Entravi, c'è una piazzola, o lasciavi la macchina lì fuori o la mettevi più avanti. C'è un cortile che in estate è tutto cannizzo, a veranda, e c'era il bar, c'era un pezzo dove si ballava, dove si fa il karaoke. Cazzo, non c'è male guadagnato, se non si nanna, cazzo, esci di sotto, un bel. Lo so. È un rischio sempre aprire locali e fare, adesso è un rischio, non conviene più, conviene vendere, non c'è manco un mercato nella vendita. Allora, mi sembra che ci ha rimesso 17.000 euro tutto il periodo estivo che è rimasta lì, a Baida da Vili. Ha travagliato un imbarda brutto. E perché lo papà di un mare della magna, la di un mare dei figli, più niente più, e anche le sfilate le facevo con questa ragazza qua, erano due amiche, erano in gamba, però anche quello è andato male, poi abbiamo provato anche a fare le sfilate dei vestiti dei matrimoni, che faceva anche l'organizzatrice di matrimoni, pure lui ci è andato a farsi benedire. Io ho una nipote che fa quel lavoro lì. Praticamente ti organizza il matrimonio, tu non devi pensare a nulla. Partecipazioni, ricevimento, musica, dalla A alla Z, dalla A alla Z ti fa. Cioè gli sposi di solito sono sempre stressati, lei non li fa stressare, solo che ogni cosa che fa deve essere pagata. Ma allora avevamo provato, ha provato anche a fare venire cantanti, anticipare tutti i soldi, i permessi. L'ultima volta a Cagliari, prima la rete velusadiani, fa i biglietti, tutti quanti, vende i biglietti e tutto, cazzo mica il comune di Cagliari dopo il giorno non gli ha rilasciato il permesso, ha dovuto rimborsare tutti i soldi dei biglietti alla gente che hanno venduto e pagarsi la sedia è un casino di spese, roba di 40.000 euro, a più mezzo la magna lo babbo. È proprio sfigata questa qua, non ricordo fa nulla, no? Cioè c'è la buona volontà di fare, non gli fa mai bene nulla. No, non è andato bene nulla, ma com'è è già arrivati all'autista, capito, si è trasportato all'ospedale, tutto corrente, i separelli, le luci, queste cose qua. Cazzo, ci ha rimesso benissimo, si fa per lo ammazza, lo babbo, figura, che ha sborsato lo babbo, la busta. Vabbè, lo so, ma bisogna anche vedere la buona volontà, se poi non gli va bene. Purtroppo sono due bici che si corrono e bisogna essere consapevoli che quando uno fa queste cose può correre anche questi rischi. Non è così Giovanni. E infatti allora, dice lo sai camminare io macello veramente. Dai, riprendo fra 5 minuti, dai, riprendi, sarai graziato. Ehi, E già un casino, cazzo, ora si lago di Gallia, la ne brusi Lucia, tu, so sempre rivieni gli schigliauti, intanto non la vince per niente, chissà poco ma sicuro, un casino di soldi, un bel. Se belli burro a casa devi dare, burro di tirano sindaco, figurati tu. Ma tu praticamente che cosa facevi esattamente a parte la buffonata? No, gli portavo il furgone il sabato, anche dal venerdì sera l'amica l'usa da travaglio, no? Venivo, mi lavavo, mi cambiavo, il furgone me lo preparavo già. E poi partivamo dove dovevamo andare, a Nuoro, a Oristano, a Cagliari, a Castelsardo, alla Maddalena. Il venerdì sera arrivi a Trezzo di notte, piazzavo tutto il parco, se poi era il sabato pomeriggio cominciava ad andare, il sabato pomeriggio tutto piazzato, perché rimaneva fino alla 1, alle 2, alle 3 di mattina, capito? Faceva sfilate di abbigliamenti, poi c'erano, come si chiamano, il complesso c'era anche. E poi vedono chi si attira nella gente, come che si chiama, la vanno a misci. Ho capito. E Pier. Quelli che ci sono anche nei centri di vacanza, la vanno a mamma e come si chiama. E Pier, quelli di pubblica relazione. E quelli che fanno animazione, capito? Era organizzata, cazzo, ma era un po' sfortunata, sfigata al 100%. E gli dicevo, ma non sarà l'amica tua che è sfigata a regagliella burate. Cazzo, se fa la chiesa di non aver fatto i suoi, tutti là, ti rimane da sola. E invece, tutti e due, avrebbe dato un colpo tutti e due. Quelli maturi stai dicendo, non è pieno, gli animaturi, io pensavo quelli che lavorano biglietti e così. No, gli animaturi sono quelli. E gli animaturi che fanno divertire la gente, anche per attirare il pubblico, ha capito. E noi i biglietti li vendevano ai tabacchini, e nelle edicole, capito, era tutto in regola. E purtroppo quando non ha davvero verso giusto di cose, aspetta che esco stato senza voleva. E poi si apre la pubblicità, telegia, alla radio, quelli di Sassari, in varie radio, va. Però cazzo, non è fortunata. E chi è stata lavorando a telegia? Tu capisci? Allora. Canta lì, fa le serate, quando non gira tutta, io soccorso. Ah, magari lo butta qualche volta già me lo guardo te lo dico. E adesso da poco hanno fatto un provino da mandare in tutti i paesi, le cose alle feste, così fanno vedere i filmati, capito? E poi scelgono se prendono o no. E anche un amico mio ci lavorava lì, non so se c'è ancora, Alberto, alto, i capelli cassane, quasi biondino, Alberto si chiama. Boh, ma non è detto che non lo conosce. Probabilmente la cosa fa? Non lo so cosa va a dire, l'ultima volta che l'ho visto un paio di anni fa, alle Croce in Viale Italia, anche io lo conosco da minoretto, si chiama Alberto Carboni, è un ragazzo alto e sposato, un figlio ci aveva, una figlia, però è giovane, e non l'ho più visto. Ma la figlia non è che ci sarà tanto, non è che usava tanto, ma ha fatto alcuni spettacoli così d'estate l'anno scorso, organizzati da Perugia, è detto qualche spettacolo che hanno fatto al mare, nei centri commerciali, capito? No, Alberto non lo sapevo che lavorava lì, ma l'aveva detto lui la volta che l'ho trovato. E poi mi aveva detto, mi guarda tale giorno che ci sono io, perché non è che c'era ogni giorno. Ero lì, penso che sia così per tutti, dai, quando c'è il lavoro te lo danno e via. Se ci sono, per dire, lavori continui, meglio per chi lo fa, perché magari continuano a darlo sempre, là. Se per dire d'estate c'hanno serate ogni sabato, domenica e venerdì, sono impegnati, sono sempre impegnati, vanno fuori, come hai detto tu, Maddalena, tu che si posti. Io stato già giravo, ogni fine settimana, il venerdì sera, poi però già mi ero rotto le scatole, si è cominciato a inviarmi dei pagamenti e aveva burubriato. E infatti le ultime sfilate che si è fatto si era fatti alla giura, si lo guidava niente lo furgone. Ma il furgone è il tuo ora? No, il furgone era roba di loro, mio, che manco io. A me lì mi aveva preso come autista e aiutare a piazzare, capito? Perché poi lì sul posto recuperava ragazze, capito? Tramite le compagne che va via e già, compreso. E scaricavano, io li baciavo, e li buonava in linea, li diceva come perché punirli, capito? La buona mano, no? Non è mai stato un barco. No, anche al palazzetto dello sport qua a Sassari l'ho piazzata. Allora a volte era venuto Nicole Tuni, la domenica la sera, la domenica il naggio di montaggio, ha già fatto scendere la chiave e andare a travagliare l'una a Mazzano. Un auguro, mai più. Io non so cosa stavo facendo il giorno che c'era il tempo, ero buttato fuori lì. Ah, quando c'era l'incredibile io ho piazzato tutte le pedane dentro, i separi. Quello della sicurezza, se faccio servizio a sicurezza lì. E anche le fotografie con i tentoni a braccetto. Anche non vi raggio burui, c'era anche io, avevo portato mia moglie, la sposata a mezzo al pubblico, io ero lì, dietro i pannelli, là. Io mi ho riconosciuto come se fosse utile, aspettato. Addirittura appena aspettato mi ha detto, vieni nella spaghetteria, non so che cosa, ti invito io. E lui mi ha detto, no, guarda, c'è un servizio da fare. E noi l'abbiamo mandato lì come sicurezza, capito? Allora vedi, quella volta lì sono andati bene, hanno incassato un bene. E però le altre volte, aspetta, sta scullando il telefono. È bello era quello spettacolo, quello di Teltone era un bel bello, a me mi è piaciuto un bel. Ciao, Anni, attento doppio rum. Sì. Ehi, no, mi ha scullato il telefono, è la mia cognata. Però disegni la busta, le è andata a vedere già incasciata, però quella volta lì, le altre volte, neanche la metà. Non ce ne siamo mai scolo col buco, grazie, purtroppo così. Quando ti stavo dicendo, stordi qui, quando ti ho detto mi stai scurando il telefono, stava scurando, non te parla neanche a me. Oh, mia cognata era Buria Memorini. E gli ho detto che è andata a casa della nipote che abita qua vicino nell'altro porto. Ho squillato il mio, come tu mi sta squillando il telefono, ha squillato anche il mio. Ma ho detto non sarà Graziano. Graziano. Hola. Ci deve essere già qualche filo dal macchino. Ci deve essere? Qualche filo, perché si è spento, allinato, domani me la fai. Se si è spento, guarda anche dove c'è il fusibile lì, quel portafusibile lì controlla, perché anche nel mio, quello lì difettava, adesso giù va tu, mi era giù alla già visto. E l'ho tirato la molla, di modo che rimane bella in tira, ma a Sarrallo, proprio a Vazzini. Evidentemente da lì me l'ha fatto anche l'altro giorno, lo devo guardare, ma vanno un tocco, chi è tutto vidi, a dare il mezzo pulibile l'altro apparato, capito? Un groviglio. Tu stai groviglandosi, anche da me è così. Da me dietro è un casino, anche perché mia moglie quando pulisce con l'aspirapolvere la bandanuta tira giù, guarda. Allora c'è l'altro parlante che non funziona, del più uno che è attaccato al computer, e nessuno non funziona. Insomma, mi ha detto, tu alza le fili quando pulisci, se no lo lasci lo faccio io. No, ne... anche io qui quando assorbo, me lo assorbo io, con la capoccia di più quando chiamo i mulini, però ci sono i fili, compreso, si tocca, allora sono così subito quando lo attenni, allora recuto due cose, gocciare i fili, buffa se darà quindi, perché non c'ho altro posto dove metterlo, ho due mensole qua, no? E l'ho abitato sotto una squadretta, e gli ho messo i cosi e ce n'è uno sopra e uno sotto attaccati, capi? E allora li ho tutti i video, un casino. No, io già ce li ho messi bene. Mi ho fatto fare a Giulio l'armadio, proprio un armadio in camera da letto, mi sono fatto fare un mobile là, non un armadio, un mobile. Con gli sportelli, tutto quanto. Tutto gli sportelli è scomparso, poi c'è i piani, ci sono tutte le stazioni. No, tre realizzazioni complete e con le luci blu tutto quanto, tutto fatto bene e tu non ci vedi più nulla. Ma io qui non ho spazio, a parte dopo far mettere quel mobiletto e ci ho messo il termosifone. Dunque io che mi sono buttato per la banca con i gadrini nella veranda, sono nella veranda. In cucina non lo posso mettere perché quando cucina fa il vapore esiste e poi non c'ho neanche posto. Cioè sì, avevo messo una mensa, ma mi mollezza appunto la pianta, la radio e altri G. Però non vanno manco me perché quando cucineggi rimango i vivi mesari B. L'unico posto è qua. Poi c'è la telecamera da letto anche, avevo quel deviatore qua con il filo. Però non mi piace via, a finirmi di avviare un comodino sotto, no? Non dentro il sartello, tra il piano di giù e in mezzo, c'è un ripiano, c'è la polvoli, e la femmina giù bucata su un bel buschi, la moglie si abbagliava il televisore, anche se mi mettevo le cuffie, mi intendi a me, fa i denti, capi? E allora mi rompì, allora mi ha divulgato e l'ho lasciato qua. E dopo me lo metto, non è altro posto. Il salone manca appunto un avviso a chi mi cura la colpa di ruccio. Il salone non ne buca. Tutti precisi, ti muovi in un cuzzurro a noi, vedi, tutti che si ribianti, la casa era come se fosse loro, là. Loro sono i vicini della casa e comanda niente, comunque tu sei là. No, a me mi ha dato questo permesso di fare, diciamo permesso, poi è stata l'accordo a fare questo mobiletto. Ed è l'unica, è scomparsa, dello stesso colore dei mobili della camera a letto, lui ha fatto un bel lavoro e niente, va molto bene così, c'è anche il computer col cassettino che esce fuori, è tutto quanto fatto a regolare. Ma la mia camera a letto non fa perché c'ho il comodo di quelli antichi che è enorme. In un angolo che c'è libero, sappo su una cateria antica che avevo ristrutturato io, poi c'è il comodino, l'urette, dalla sabbatia per un comodino, una pianta e ivi. E poi vi sono tutti il suo cazzo delle tende, pare un museo. E dunque non c'ho posto. Ma proprio di cui buono via. L'unico posto è qua. non gli do fastidio, sono buono, in un angolo, ma in realtà che già so bene, è vero, ma la gente che già lo sa come sono le verande, che già si intendono freddo. Oggi non tanto, ma quando comincia a lusireno già si sente. Eh sì, e anch'io ce l'ho verano, ce l'ho con le finestre basculanti, non basculanti, scorrevoli, c'è anche quella basculante sopra, vabbè, e poi ci sono le scorrevoli, no, se tu vuoi aprire a giorno, liberi tutto e apri, e entra l'aria, se no salvi, e ha giocato, chi mi ha giocato la guzzina? Ha giocato il placcaggio. E mangi buccio una guzzina manna, glucosa, eccetera. E cuciniamo l'estate per non stare a fare odore di fritto, capito, quando frigge e cose. Noi cuciniamo fuori, apriamo la finestra e via. Anche qua io faccio così, no, la cucina la vuol libera a me bugini, non li vuoi mi salvini, perché non è grande grande la cucina mia. Cioè, poi la mia cucina è componibile, è fatta su misura, capito? Cioè, il macello, c'è cioè il ripiano in granito, vero, non finto. Ma va fatta a Santona, quello là più mobile, a via Grazia d'Aletta, soprattutto va via la Balegna Mei. Tutta la cosa l'ho presa, anche soggiorno me l'ha fatto lui. La grisagliera, la banca, le gadrini, tutto va via qua. E anche il tavolo che avevo qui che si era giocato pure che era troppo umano e impediva un casino di roba e me ne ho comprato uno rettangolare piccolino allungabile e andava e pure i gadrini l'avevo usato, l'ha giocato pure e me ne ha occupato quattro e ha venuto a fare i buchi, si mise per qualche cadrea quando apri il cavallo l'ha meglio da usare una. Vabbè, infatti. Quindi vabbè, quando gli spazi sono quelli non è che puoi fare più di tanto, è normale. Ma anche noi sedi già li abbiamo un tavolo che praticamente è pieghevole e ci metto tutte le sedie dentro in fila, ci sono 6 sedie che l'avevamo preso e non mi ricordo manco la rofe. E quando facevamo le feste per i bambini a casa lo mettevo, questo tavolo è allungabile per metterci la roba sopra, no? I dolci, tutta la roba sopra. E in più sotto c'è una specie di serranda, no? Tu apri questa serranda e ci sono tutte le sedie dentro, cadrevi, i gadri, li devi dare un garratto e li bocco, tranquillamente. No, quando c'è gente noi non siamo mai sprovvisti di sedie. Beh, allora dalla me no. Oh, ci sono più di 10 persone, c'è quella di camera da letto, qui Santica, la Bongurumate, ci ha preso i mobili di Rodi, si fa in garage, piglio quelle che ha prechiusi dal mare e pongo qui, se ne ho altre sì, più ne salgo il tavolino per appoggiare tutta la roba, capito, balanzando il turreno. La voglia, poi... E va bene, uno si avvancia. Chi finisce sempre a tagliare, a mangiare, la briga si acciappa il muro. Ah, io qui anche se sono all'ultimo piano, ho la griglia elettrica, grande. Apro tutta la vetrata, pongo il carrellino della frutta, l'appoggio lì su, la metto vicino alla finestra e vedo i secchi venne. Poi noi ce l'avevamo, me l'avevano regalata al matrimonio, Ariette era, di quelle grandi, enormi proprio, e mia moglie non l'ha più voluta, me l'ha fatta dare a Portobello, abbiamo venuta una cazzata. Un peccato, una bella, mi facevano queste cose a posto così buone. Anche la verdura con stivo sotto. Avanti chi vuole entrare? Buonasera. Buonasera. Eugenio. Il fratello maggiore. Sì. Ebbene Eugenio. In compagnia di Graziano, Buffo, c'era anche Gianmaria. Ma è perché mollava un attimo, non so se sia rientrato. Gianmaria ci sì. Buonasera a tutti, buonasera. Dicevo, col tavolo buttalo su casa che poi già ci penso io. raga. Grazie. Avanti, presente oggi del produttore. Ciao Eugenio, ben sentito, K del Ruggero. Quei tavoli così sono un sacco comodi. Ma se c'è un posto dove tenerlo quando è chiuso andare. Se no verrai sempre in mezzo ai bici, io quelle sedie là ce le avevo più praticamente. E lui sempre il pulca a destra e il pulca a sinistra. Allora se la giocava da noi me la giocavo 4, diverse, più strette, e entrano bene sotto il tavolo e c'è più spazio e tutto, capito? Sì, un po' di luce, quando mi fa girando se non ti fa bene i conti. Avevo i qui che ci ha preso sorpresa, noi ci piace spesso, prima abbiamo una ragione giovane grossa, prima come a moglie vediamo, quello ci sta, misuriamo, vediamo, è meglio però così, e adesso io ce l'ho la cucina componibile, adesso grazie, ce l'ho in cucina, è più di 5 metri lunga, niente, poi però ho fatto questa seconda cucina nella veranda, mi hai capito? Ehi, è la mia mano la testa, allora frontale così è a L la mia, però non è tutta lineare. Sono 3 metri, 2 metri là subito, 5 metri, c'è la colonna a frigo, c'è sopra il frigo e sotto il perfetto, pesce, capa completa, capito? Però se ti metto il tavolo mi rimane poco spazio quando te ne alzi, capito? Per stare intorno. Ciao Gianni. Sì, oggi dimmi. Ma dove sta modulando? Era il cuffo quello lì? Da Sassari. Perché io lo sento in mezzo a quel rete? Probabilmente non è una favorevole per te. Ma la tua voce sta murmurando. Che strano. Lo sento quasi di radio. Perché il segnale non è altissimo. Non bisogna, vabbè. Grazia. Marico stava dicendo che ti sento in basso a parottone, si vede al quadrante. Dipende anche dall'antenna, avevo radiale mi. Aspetta, attacco l'altro già, riprendi tu che mi attacco l'altro. Sì, ha detto che l'antenna ne ha buttato tutti i radiali, ne ha uno solo adesso. Ho sotto per quello giù. Ah, ecco. Perché, scusa, Luca del Monte, mi arriva forte lo stesso. Io come ti arrivo lì? Ah, beh, tu non hai problemi. Anche io sono un po' quel vento là, me l'ha buttato un radiale, me l'ha portato quello della mansarda, me l'ha portato a casa, è già lo secondo che mi ha detto. Trovato? Vabbè, ma quanti ne hai? 4? Cioè ce ne hai ancora 3? Sì. Vabbè, andiamo anche qua. Ma il radiale si trova, vado a comprare, si ripiatta la buona volta. Ma non è quello il problema. Si trovano la bricco. Gianni! Sì. Grazie. Dimmi come mi senti adesso, sei più forte. Ha abbassato il segnale e la radio pure. Adesso più basso è. Sì, prima arrivava quasi 7, adesso mi arrivo forte. Ho le cuffie, riesco a tirarlo fuori un attimino così. Trastia dice che invece di aumentare hai abbassato. Magari perché l'ho appena acceso questo già. Boh, io ho portato a se lo sento bene a Graziano. È strano però Luigi. Io in macchina lo sento bene. Sì, ma non oggi sicuramente. Aspetta un attimo, sta scrivendo il cellulare. Io oggi a te ti sento senza colore radio 5, anche se c'è colore tu lo tappi. Boh, in genere arrivo sempre bene, magari sarà la lui l'antenna, non lo so. Io l'antenna quella lui di, perché non sarà abbassata l'antenna, solo che magari la zona, boh. ma poi dalle parole del trattore, io ero entrato il portatore su quella campagna che ci sono, via di Dio. Io a me sono caduti due radiali, due vabbè, non c'è una stazionale né nulla, è perfetto. Stazionale mi segna qua 1 e 1, dunque se così che non venne 1 e 1 non ce ne hai, no. E non si muovi, sia con questo che con l'altro baracchino, perché c'ho il coso qua che mi aveva dato Gio Maria e mi segnava. Eccole qua. Ehi, avanti di nuovo, vai, avanti. Io ti stavo dicendo che a te ti sento, anche se c'è il QRM, ti sento soltanto a per Radio 5. Vedi, grazie. Ehi, ma non lo sento più. Mi senti, grazie. Mia Gio Maria. Gio Maria. Ehi, sono rientrato. Eccoci qua, c'avevo gente, capito? Io sono venuto a sentare. A chi non vuole mancare mai? Così che bisogna sentarsi, va. Ok, grazie a bere, senti a me. Boh, prima ti sentivo meglio, boh. Meglio. Ma tu già come sei? Ma con K, sì, però me lo vuoi dire adesso, mi dico radio, boh. Questo ve lo regolate, Gio Maria. Aspetta, vediamo un po'. Oh, e adesso com'è? Adesso va meglio. Grazie. Ehi, adesso è più pulita. Ehi. Perché c'era il processore agganciato, forse per quello, va. Ehi, c'è anche Eugenio, la porta. Eugenio, sì. No, non c'è lega il telefono ancora, là. Cappa, Gio Maria. Qui adesso ti sei liberato, va. Eugenio, evidentemente, si è assentato. Ok. Dovuto attenuarti già, perché l'acqua arriva a fondo scala e se mi sono un po' saturo, allora ho dovuto attenuarti. Adesso magari se 9.30 e 5 quasi 40 attenuato, per cui la radio più chiara, più perfetta, ecco, tutto lì. Ehi, sicuramente c'è la radio troppo alta, così non baciate il macchinino. Oh, attenatore, io sono attenatore, sei più confitto, capito? Sono una ripresa, basta abbassare e ti sento più perfettamente, capito? Sono rientrato, No, ma tu come è uscita? Tu poco fa la radio non era chiara, ho detto che c'era abbassato, ma che lì? No, il processore è inserito che io non me ne ero accorto, capito? Forse perché siamo vicini, è quello, hai capito? Avanti, Eugenio. Eugenio, avanti. La radio non è quasi incomprensibile dalle mie parti, però il segnale è aumentato parecchio. Si è stati a 8. Chi? Sì, come si chiama? Fabrizio Buffo, come si chiama? Ah, Buffo. Buffo ha detto che è aumentato il segnale adesso, però la radio dice che non è comprensibile. Boh, è stato chiarissimo, non so cosa. Forse il QRM che disturba a quelle parti. Avanti, Giulio, mi ti chiamo Giulio Giovanni perché vi assomigliate con modulazione. Mi scambiano sempre ogni tanto. Giulio, oggi mi senti? Sì, io ti sento. Santa Colombo, la radio è sempre bassa. Oh, Buffo. Ma sono Buffo, Gio Maria sono, mi senti? Ah, Gio Maria, cosa è successo? Perché male mi senti? Attacca il processo. Adesso come mi senti? Adesso decisamente meglio, Vabbè, in saturazione sono già. No. Allora, quello che puoi, magari raffredda la radio, Gio Maria. quello che puoi fare il vicinato non puoi fare l'operato, quindi capito, cioè, diciamo che sono due modi di emettere di virus, perché se tu il vicinato non si fa qualcosa ti sentono male, però non parate ti sentono bene, quindi lasciate come ti comportati. E certe volte l'ho acceso direttamente, non guardo quello che sto. E come non è, capito? Succede questo particolare. Vediamo un po' se Graziano adesso mi sente bene. Graziano. Ehi, già ti sento bene. Aspetta che volevo sapere da Eugenio. Come mi senti, Eugenio? Adesso sei più chiaro, però il segnale c'è Santiago 5. Capito? La radio è leggermente più chiara, però il segnale è sempre arrivi Santiago 5. Sentiamo bene fuori, cioè bene. Bene. Non è che ti sento bene chiaro, però non è forte. Per sentirti forte devo sollevare il volume. Capito? Invece a Gianni, a Gio Maria è come che si hanno seduti qua. Vabbè, loro due sono una spesa comunque, io sono a Porto Torres. Lo so, e poi bisogna vedere anche in che zona sei, se sei in un po'. L'antenna messa male, probabile sia che a quello, non lo so, ma magari dipende da me che non ho un'antenna di quelle buonissime, così è Gianni. Santiago 9 sei qua, oggi, e Santiago 9 la radio è abbastanza chiara, non è forte, però è chiara, capito? Sì, io Giovanni. Eia. E tu da dove stiamo andando? Vicino a Graziano, però io ho l'antenna da Mantova 5 in da, perfetta, capito? Mentre Graziano, anzi, è un miracolo che sta uscendo così Graziano, capito? Sto malmessa, Però, hai visto, arriva ugualmente a Porto Torres, dai. Sì, dai, arriva, già va bene, l'importante è sentirci, dai. Poi dalle mie parti c'è un sacco di corrente, forse anche per quello. Beh, trovare il mare lì, così che è chiaro, ma guardiamo anche qua, Io per esempio qua c'ho sono le macchine che passano, capito? Ma tra i motorini mi creo un sacco di fracasso, quei motorette, quelle a tre ruote, quelle mi creano un QRM pazzesco, capito? Ed è molto trafficata, allora mi disturba, capito? Perché prima era un'altra parte e non mi diceva, ma c'è questa parte, ho cambiato, c'ho questo disturbo, c'ho. Purtroppo certe volte magari annulla le modulazioni, capito? Ho capito, però almeno io ho quella fortuna che qua moto e macchine passa molto poco, che è una strada privata. E allora perché però il QRM vicino al mare è super acqua, capito? Anche qua quando esce Maria certe volte, per carità, non si può ascoltare niente. Graziano invece è più libero, più nascosto dalle macchine, per cui è un punto buono. Gianni non ne parliamo, è più alto anche di me, io sono più in basso e lui più in alto. E già dovrebbe arrivare molto più forte di me, perché è più in alto, capito? Non ho capito. Vabbè, dai, l'importante è sentirci. No, ma andare. Infatti, allora, l'importante è sentirci. Lui, le potenze non bisogna usarle, io non ne uso potenze, capito? Per cui, massimo 6 watt e non di più, e va bene ugualmente. Tutto lì, già andiamo avanti. Se ne siamo tanto Gianni. Sì, vabbè, ma io lo stesso, sto uscendo 5 watt, non ho grandi pretese. Arrivi bene ugualmente, per cui non c'è bisogno di attaccare niente, per cui arrivi ugualmente. Graziano a me mi sta spaccando i timpani con quella radio, va benissimo, perché io ho una ricezione favolosa in questo apparecchio, per cui arriva fortissimo, Vai, grazie. Ehi, adesso dipende anche dalla giornata, capito? Perché anche se c'ho l'antenna messa male, se è bella giornata, lo sai come arrivarsi in chino? È una bomba. Anche la giornata, dai, la giornata. Guarda, Giovanni, guarda un po' il segnale qua, guarda un po' com'è. È 992, sì, adesso, è 992. Ecco, adesso è cambiato qualcosa, era stata la curiosità di vedere se è cambiato qualcosa. Ma poca roba, un sacchetto aumentato, aumentato un sacchetto. Va bene. Ma come ho aumentato il vostro baracchino, ma sono ritornato normale. Se così arrivi bene ugualmente, non ti preoccupare, non lasciare. Va benissimo la radio, vai, grazie. Ehi, è poi questa, mano che scalda, esce ancora più forte, è vero Giovanni? Sto usando lo Zodiac adesso. Oh, vai cazzo, lo Zodiac, la radio, perlomeno io ti sento bene perché magari siamo vicini, capito? Ma ci arriva a portatore, la radio arriva, penso che arrivi a Ogino anche con la radio pulita, ecco. Il segnale magari sarà basso, però la radio dovrebbe essere pulita. Confermi, Luigi? È vero, adesso ti sta scaldando, guarda che sta arrivando anche più forte il radio, Vedo un po', grazie. Mentre avvicino la suppa il baracchino, scaldano dopo l'attacco, grazie, vedrai che sei più forte. E poi con questo sto usando quell'alimentatore del computer che è più forte di quell'altro, Giovanni, e vuol dire un la luce non si abbassa, invece con quell'altro alimentatore la luce si abbassa quando schiaccia a parlare, capi? Comincia, questo è più perfetto, evidentemente se esce con la potenza sua direttamente, così che va bene per quell'apparecchio, mentre l'altro alimentatore evidentemente cerca di assorbire di più, capito? Così che è più basso da peraggio e allora si crea quel problema, che si abbassa le luci. Mentre qua l'amperaggio è fortissimo e le luci non si abbassano, vuol dire la corrente è perfetta, grazie, perfetta. Però meno, anche se siamo vicini non risorge, la radio è pulita, bella e forte, poi con quell'apparecchio si è scritto sempre bene, e la camera eco inserita, va bene, ma se tu togli la camera eco esce col baracchino normale ti sentono male, grazie. Perché anch'io facevo così, se mettevo appena qualche cosa in più uscivo più forte, ma con l'apparecchio normale non va. Mettevo l'M300, era una cannonata in macchina, ragazzi, dappertutto mi sentivano. E poi qua c'ho anche il microfono da tavola, non c'ho quella palma. C'ho il ZGM BP4 che è stato modificato anche questo. Io ho usato l'MVP5. Questo che sto usando io, c'ho il microfono MBP4, però è stato anche modificato, capito? Sto facendo bene, anch'io ho l'MVP5. Se sono una canonata di microfono. Questo è il nuovo pure, il nuovo logo, aveva venduto Natalino, te lo ricordi Giovanni? Va bene, per quell'apparecchio va benissimo. Io ne ho tre MBP5, tre, ne avevo quattro, uno l'ho venduto, e mi è rimasto quest'altro, nel quale gli altri due sono piazzati, per cui tre ne ho, ecco. Così che già vanno bene anche quelli, Luigi. Io è MP più 4, non più 5, più 4. Eia, me l'hai già detto, io ho il 5, MP più 5 c'ho, capito? 4 non ne ho io, ce l'hai tu il 4, capito? Eia, e infatti poi Natalino visto l'aveva modificato, esce più forte. che trappoccia molto mancata gli abbatiti, la cane era puzzente, allora e l'ha riportato, capito? Grazie. E allora, infatti non mi ha già avuto la stella batteria nuova che avevo comprato, adesso me la devo comprare un'altra, di quelle quadrate. Magari poi ci ha mandato la batteria. Ah, va bene, non c'è bisogno che sta uscendo bene. E dopo si è rientrato Gianni hanno ancora il telefono. Pedro G, com'è il tempo lì, com'è? Ma per carità, speriamo che piova, perché di questo sole oramai non esco a le piene. Ma domani fa bella giornata, eh? Domani dice che fa bella giornata, per cui pazienza, per stasera non si esce, si sta a casa, è in caldo, tranquillo, e va bene. Grazie, chi sa stufa di una lampada, lo stesso come prima. La vacca sicura non ha migliorato. Adesso la metto a 3 a vedere un po' se sale di più, perché a 2 al minimo, capito? Adesso la provo a vedere a 3 se ti aumenta pure, no, un attimino, E prova, e signor telefonetti, non è in garanzia, cazzo, non ho capito. Non credo in garanzia, è come se fosse. E ha fatto un anno a marzo, e 2 anni di garanzia, un attimo che l'aumento. Prova a mettergli la potenza, magari. Ma ci vanno il livello a 2. Secondo me non è comunque il livello aria, la venturina. Ciao. Chiudendo sei oggi. Sto spostando, ci sentiamo, dai. A 3, vediamo un po' adesso. 19 gradi, grazie. 19 gradi, poco fa era a 18. Adesso è a 19, è aumentata la caloria, capito? Piano piano, più carichi, la zuppa, più la tena assisa. E la dell'oggi con la temperatura. Come la prima e adesso non sale più di quel tanto, non ha migliorato niente, è stata pulita, è fatta a perfezione, e infatti dovevo chiamare, per cui bisogna farla controllare, perché non mi piace caldando sì, però non la fiamma è sempre bassa, ecco, bassa. Allora venga, che cosa? Chiamalo a chi sei in garanzia, non li devi pagare manco la chiamata perché è in garanzia, eh? E fatti, prendi già, cosa? Ieri mi sembra che abbia chiuso, lì è il sistema di ventilazione, sicuramente, Gian Maria. È il sistema di ventilazione perché c'è un sistema che ventila. Che manda soffia tutto sul fuoco per fare la fiamma allegra, capito? Cazzo, è salattina, cazzo. Ma proprio con l'attenzione mi capito due ore prima. L'ha già fatto un saluto, che adesso qualche cosa che non puoi. Secondo me sarà la pelle che sia umida, grazie. No, se anche umidità è beh, su garage. E pure da quando va umido, no? E perché io in garage non lo lascio? C'ho una padana di legna, poi c'è sopra c'è il cartone, io ci metto i sacchetti sopra. Freddi sono freddi, ma umido non puoi né. E adesso le linee prendono un altro paio di sacchetti e di quello più buono vediamo un po' il risultato. Se non migliora lo chiamo direttamente. Ma voglio provare prima con altro un po' di pelle a vedere un po'. Non mi piace proprio. La prima e adesso, la più nemmeno. La fiamma alta era una mezz'oretta dopo che l'ho accesa, ecco, dopo si abbassa e adesso abbassa. Sta scaldando sì, però non è la fiamma alta, ecco, abbassa, è appena abbassa, ecco. E il faggio ci vuole, il faggio. Mettici, prendete il faggio, vediamo un po' se migliora. Adesso provo per lui. Certo, la scena è, stava andando così, con la mela, a due mica, facevano una fiamma enorme, cazzo. Perché questo mese scorso ma ha cominciato a difettare. Certamente è pulita, la puzzeglia l'ha fatta a perfezione. Non lo so da che cosa dipende, provo a cambiare pelle e sapere un po'. Prende la grazia. Ma tu quale stai usando? E come quella che c'ha Graziano, come si chiama Graziano quella lì? Cosa? E per il te che sei usato tu, è precisa quella che ho io. È uguale a quello che ho preso io alla piccola. Allora, la mia dovrebbe funzionare solo con quei sacchetti bianchi, a pezzo.